Do il buongiorno a Nives Lopez di Studio Atlantis. Buongiorno Nives e benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko. Buongiorno e grazie a te per invitarmi. Allora, siamo qui, Nives, per parlare dell'evento che ci sarà domani, 6, dicembre, all'interno del Festival La Violenza Illustrata, in cui si presenterà l'Atlante dei femminicidi in Italia. Ti volevo chiedere innanzitutto che cos'è questo Atlante e appunto come verrà presentato domani. Allora, l'Atlante è la rappresentazione visiva interattiva del rapporto annuale che dal 2005 realizza la Casa delle Donne di Bologna sui casi di femminicidio che ci sono in Italia annualmente. E sono casi che loro rivelano dalla stampa. E analizzano la situazione in cui è successo l'omicidio e quindi li catalogano come femminicidi in base a dei criteri riconosciuti dalle Nazioni Unite, eccetera. Non ci sono dati ufficiali e questa è una delle rivendicazioni della Casa delle Donne, insomma, cioè chiedere che il governo nazionale si impegni nel compiere il compromesso che ha preso con la Convenzione di Istanbul di raccogliere dati ufficiali sui femminicidi nel paese. Avete anche deciso di rappresentare le donne vittime appunto di violenza in un modo molto particolare. Sì, allora questa è stata una sorta di idea venuta in corso del progetto, non era previsto all'inizio, però compilando l'Atlante ci siamo resi conto che mancava una rappresentazione umana di queste donne, però allo stesso tempo, vedendo altre esperienze in cui si pubblicano le fotografie, a volte anche prese dai social network, eccetera, si dà una visione molto da cronaca e quindi abbiamo pensato questa idea di coinvolgere dei fumettisti. La campagna l'abbiamo chiamata 100 fumettisti contro il femminicidio e abbiamo chiesto loro di donarci un ritratto fumettistico di ogni donna. In questo modo abbiamo cercato un po' di dare questa immagine umana delle donne, personalizzare le vittime, però senza dandogli un taglio un po' più artistico, diciamo, più soggettivo della fotografia. È stato molto bello perché abbiamo avuto un sacco di risposte positive e i fumettisti si sono impegnati in tanti, insomma. Abbiamo avuto il sostegno delle organizzatrici del Bilbo Bull che ci hanno dato dei contatti di fumettisti noti e hanno risposto molto bene. L'Atlante sarà presentato, come dicevamo, domani pomeriggio in sala Tassinari alle 15, ma è consultabile anche online. Sì, sarà anche in streaming. Al di là dell'evento, Hanno dici la proprio diciamo l'Atlante sarà consultabile anche Scusa, non so online. se ho sì, scusa, non ho capito la domanda. Sì, l'Atlante è già consultabile online, ci si accede sia dal sito della Casa delle Donne di Bologna, sia dal sito di Studio Atlantis e probabilmente da domani sarà anche su altri siti dei partner del progetto. Io Nives ti ringrazio e ricordo ancora una volta domani pomeriggio alle 15 alla Sala Tassinari di Palazzo d'Accurso, all'interno della programmazione del Festival La Violenza Illustrata, verrà presentato l'Atlante dei femminicidi in Italia. Grazie ancora Nives per avercene parlato. Grazie a te, arrivederci.